Granada, bien sangrentada, sentada de toro. Verme conserva del brujo de los ojos moros. El señor verde y gitana cubierta de flores. Y beso tu boca de grana, tu voz avanzada que me habla de amor. Granada, amadora, cantada, en coplas preciosas. Con pelo a raposa, quedarme con un ramo de rosa. De rosa de suave fragrancia que le diera el marco a la Virgen Morena. De sangre y de sol. Rosa de suave fragrancia que tiene en el marco la Virgen Morena. Oh, no. Thank you.

per la bellezza di Viola, e là fuggevo ora si ne ria voluta di viable i dolci freniti che suscita l'amore, poiché quell'occhio alla cuore ogni possendeva. Tra voi, tra voi saprò di venire l'ogno d'amogno, tutto è follia, follia del mondo, ciò che non è piacer, godiamo voce. 到歌舞剧场，我是古月。接下来请欣赏1988年6月多明戈与凯瑟琳巴特尔在东京音乐会的精彩现场。列文指挥梅特罗波利坦歌剧院管弦乐团担任器乐部分的演奏与伴奏。音乐会的曲目有命运之力序曲、歌剧茶花女中的二重唱、离开巴黎的日子、唐帕斯奎莱先生中的咏叹调、姑娘的秋波、拉美摩尔的露琪亚中的咏叹调、你张开了升天的双翼、爱之甘醇中的咏叹调、亲爱的酒、意大利女郎在阿尔及尔的序曲等。下面请连续欣赏。 palpito c'è da m'invana senza desistere non potrei scordava man la donna volata come per buon angelico che ne perdoni la mia sonino la sua morta mi rende non lo amo nemo l'angia mio ma il mio di mi del mi potrà da me non lo amo nemo l'angia mio ma il mio di mi del mi ognuno, ognuno Thank you. so anch'io la virtù magica tu porta dentro il luogo son'io come si bruciano i cori al vento fuoco tu brivi son risetto come osco ti ha detto ti penso ogni la lacrima d'un sole tu languor conosco i testimoni dei loro rosi frulli i versi morti facili però ti spari un cor tu brivi son risetto ultimo avanzo d'una bastir ben felice de raccogliete voi. mio, come esser deposente la tua virtù, se non bevuto ancora di tanta gioia, già mi colmi il pene. Ma perché mai l'effetto non ne fossi io vedere prima che un giorno intero non sia trascorso? Beva sì. O buono o caro, un altro sorso. A qual di vera in vena, con fuga non scorre, ma forse anch'essa, forse la via mai stessa, incomincia a sentir. Certo la sente, me l'annunzia la gioia per appetito, e in me si risvegliò tutto ad un tratto. Essa, ma no, non ci appressiamo dei miei sospiri, non si stanchi però, tant'è domani adorarmi dovrà quel cor spietato. Sim. una prova. Mi soffrir primiero, dimenticarmo io spero. Dunque l'antico fuoco si estinguerà fra poco. Ancora un giorno solo e il cuore guarirà. Thank you.